dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E come ogni mercoledì, l'Onda in Onda dalle 18.30 alle 20.30 vi tiene compagnia qui su Radio Panorama degli studi di Termini Merese, Andrea Massaro e Alessandro Montemagno, perché oggi Antonio Panzica, come al solito non c'è, perché non c'è, perché domani si laurea, quindi facciamo un grande in bocca al lupo e tanti auguri ad Antonio che domani finalmente diventa medico. Dottore, cioè il dottore vero e proprio. Gli applausi, grande, grazie per gli applausi. Mi sono quasi mi sono emozionato. Stupito da solo per gli applausi, io veramente sono allibito. No, anche perché non so come ha fatto, capito? Cioè... E il nostro direttore dietro lo schermo qui dell'acquario fa tutto, riesce a fare qualsiasi cosa. Va bene, allora ricordiamo subito i nostri contatti e soprattutto annunciamo che oggi per la nostra classica rassegna indie rock avremo con noi interviste Radio Clone e Wake Up Call con due bellissimi album e siamo lieti di averli con noi. Vi invitiamo a seguire la puntata proprio per ascoltare i loro pezzi che sono veramente molto belli. Diamo subito i contatti radiopanorama.info o.eu per chi vuole vederci e ascoltarci in diretta streaming, oppure sull'applicazione TuneIn disponibile per Android ed iPhone per chi vuole ascoltarci streaming da qualsiasi parte del mondo col cellulare, basta una connessione internet o una connessione wireless. Poi 380 76 90 204 per gli sms, 091 78 45 230 per chi vuole chiamare e intervenire in diretta, ma vi consigliamo di non farlo per non beccarvi i nostri insulti. E infine facebook.com/londainonda per chi vuole scriverci in diretta sul nostro profilo Facebook e twitter.com/ondainonda all'hashtag.ondainonda per chi vuole commentare la puntata insieme a noi. Bene, abbiamo detto tutto, non possiamo non iniziare se non con la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, chiodo, chiappiamo, se va, chiamai! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito del sangue. Bene, allora ricordiamo subito i nostri contatti prima di iniziare, perché si fosse perso l'anteprima: facebook.com/londainonda, radiopanorama.info o.eu per chi vuole vederci e ascoltarci in streaming web, poi twitter.com/ondainonda invece che l'onda in onda, che è il nostro profilo Facebook, e poi sms al 380 76 90 204. Non siate timidi e scriveteci, perché insomma saremo molto contenti di leggerli durante la puntata. Ricordiamo che Antonio non sarà oggi con noi, quindi la puntata sarà leggermente diversa da quella a cui siete abituati, forse gli piacerà anche di più, non lo sappiamo. Il nostro regista non so che cosa sta facendo, ridono insieme. No, niente, ma cosa ti importa? No, perché tu vi vedo nell'acquario, vi devi vedo stare lì muto. Vi vedo complottare e ridere, no, quindi ma non complotteremmo mai. Non complottereste mai, ho capito, va bene. Allora, ricordiamo che invece le nostre interviste saranno quelle dei Radio Clone e dei Wake Up Call, che presentano i loro nuovi album, e presto tra l'altro presenteremo un grosso album di un artista molto famoso, ma invitiamo a rimanere collegati con noi per scoprire chi è. Partiamo subito con il primo pezzo e ci rivediamo subito dopo. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want. Say hell yeah, beat is knocking, got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb the disco. I fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hey. Love. Ma perché dice il Bilby Love invece che se si chiama This is Love? Ma il Bilby Love. Il Bilby Love. Il Bilby Love. Sembra quasi da... Il Bilby Love. Non lo so. Da Michelino. Da Michelino. Il Bilby Love. Sì, un Michelino un po' più cresciuto. Una Michelina. Questa è una Michelina. Allora partiamo subito con le nostre notizie. Prima però ridiamo subito i contatti. Allora facebook.com/ondainonda, twitter.com/ondainonda. E poi radiopanorama.info.e per lo streaming internet e soprattutto TuneIn Radio, l'applicazione per cellulari, iPhone, Android e credo anche Windows Phone per chi vuole ascoltarci in streaming dal cellulare, se non avete proprio nulla da fare. Vi rompiamo le palle ovunque. Ovunque, cioè, non potete scappare. Scappare minimamente. Allora, diamo subito le nostre notizie a cui i nostri ascoltatori sono molto affezionati. Io so già cosa andranno a fare appena darò questa notizia, perché è di Vienna la notizia di una donna completamente nuova sui vagoni della metro. Caccia aperta, la donna misteriosa che da alcuni giorni si aggira senza veli sui treni della metro di Vienna. Si aggira, sembra un fantasma, sì. Cioè, non è che fa paura. Però di lei si sa pochissimo, solo quanto appare dai filmati delle telecamere a circuito chiuso in funzione sui vagoni del metro. So già cosa state facendo. State scrivendo donna nuda Vienna su internet. E vi assicuro che non è niente male, perché lo sto guardando, è veramente interessante. Apparentemente di un'età compresa tra i 30 e 40 anni, la misteriosa utente hot è stata vista girarsi completamente nuda nei corridoi della stazione Cardinal Nangelplatz, sono riuscito a leggerlo tutto, sui vagoni in transito, niente abiti né biancheria intima, la donna indossa unicamente un paio di stivaloni neri, secondo alcuni testimoni ha percorso varie fermate prima di scendere ed è rimasta completamente indisturbata, nonostante molti viaggiatori l'abbiano fotografata con i loro telefonini. Il servizio di sorveglianza della metropolitana di Vienna sta analizzando i video per intercettare l'insolita passeggera, ma per lei si profila anche un'allettante opportunità. C'è chi è pronto a offrirle un servizio fotografico in cambio dei dettagli della sua bizzarra storia. Io ovviamente ne approfitto per fare grazie per fare anche un invito, vuole fare un servizio fotografico, siamo noi disponibili dell'onda in onda per per sottolineare l'efficienza della metropolitana viennese. Sì, esatto, ma in Vienna c'è anche il servizio. Nessuna metropolitana al mondo avrà questo servizio, immagino, quindi Vienna number one. Esatto. Chi vuole andare a Vienna, insomma, prenderà sicuramente la metropolitana. Sicuramente la metropolitana. Bene, allora, dobbiamo ovviamente avvertire i nostri ascoltatori che oggi la puntata sarà un po' diversa, perché non sarà con noi Antonio, che domani si laurea. Quindi gli facciamo veramente un grossissimo in bocca al lupo proprio per il conseguimento della sua laurea in medicina. Ci ha messo tanto, si è tanto impegnato. Quindi da mercoledì prossimo riprenderemo la puntata arricchita del nostro nuovo co-conduttore, ormai laureato, quindi proiettato verso il suo nuovo mondo medico. Bene, allora continuate a restare con noi, perché vi ricordiamo che subito dopo ci sarà l'intervista con i Wake Up Call e con il Radio Clone. Ma prima hanno chiamato per dire anch'io mi farei un giro con. Hanno chiamato al telefono? Sì, anch'io mi farei un giro con la signorina. Ma chi era? Scusami, perché... il nostro amico. Il nostro amico Peppe? No, chi? L'altro chi? Amico. Non so chi. Rambo. Rambo, salutiamo Rambo, che sempre si aleggia qui nei nostri studi, chiamandoci al telefono e richiedendo pezzi, insomma, che cercheremo di accontentare. Quindi grazie a Rambo per il tuo sostegno, e ringraziamo soprattutto tutti quelli che ci continuano ad ascoltare dai loro telefonini, dalle loro macchine, da dovunque, perché gli ascolti sono veramente molto alti e noi siamo contenti, insomma, di avervi sempre ogni mercoledì pronti ad ascoltare le nostre vaccate. Oggi ne ascolterete un po' di meno, magari cercherò di impegnarmi a dirne più del solito, visto che devo fare il doppio del lavoro per dire delle solite vaccate che dice anche Antonio. Ma prima ci ascoltiamo un pezzo e vi ringraziamo ancora tutti quanti. It ain't your spit game, it's your lipstick. cocaine. That got me walking around ready to wear your big chain. I only argue with them when the Lakers on. Other than that, I'm getting my Marc Jacobs on. But my pizza came so cold that he always seen it come back. Cause he know that it be a rap when I'm riding it from the back. Wait, oh, let me see your phone. Cause all them bitches is ratchet. And now let me get in my truck. Cause all them bitches are catchy. Wait, damn, there I go again. I be tripping, I be flipping, I be so belligerent. Man, it's that we be fighting over so irrelevant. I don't even remember though, I was probably hella bent. Let's go. Torniamo nuovamente in diretta, sempre con l'Onda in Onda dagli studi di Radio Panorama. Diamo di nuovo i contatti: facebook.com/l'onda in onda e twitter.com/onda in onda. Scriveteci, soprattutto per quel che riguarda l'argomento che stiamo per andare a introdurre, ovvero se ne è parlato in questi giorni, c'è stata la sentenza sulla la commissione grandi rischi per il terremoto all'Aquila e sono stati condannati gli esponenti della commissione grandi rischi. Vorrei sapere voi cosa ne pensate, ovvero il mondo scientifico si sta dividendo accusando i giudici di aver messo sotto processo la scienza, molte altre persone invece dicono che non che l'esatto opposto, cioè che in realtà non è stata messa accusata la scienza, è stata condannata la scienza. No, perché stavo leggendo con gli occhi mentre parlavo, quindi sono confuso, scusate. Non è stata condannata la scienza, alcuni hanno addirittura parlato di Giordano Bruno, ma in realtà si è semplicemente contestato l'operato di un organo che doveva essere quello appunto di intervento e di coordinazione dei mezzi di intervento, quali la Protezione Civile, oltre a tantissimi vari fatti che poi spuntano dalle carte delle indagini. E che quindi la questione è molto più politica invece che scientifica, dato che non si possono prevedere i terremoti, nessuno ha mai detto questo, ma la questione è diventata una questione politica. Ora, so che su questo ci sono due diverse anime che la pensano in maniera completamente opposta, diametralmente opposta. Vi chiedo voi cosa ne pensate, scrivetecelo e vediamo di capirne un pochettino cosa ne pensa anche il pubblico che ci ascolta. Bene, passiamo a un argomento completamente diverso, uno di quelli che fanno piacere al nostro amico Rambo, che continua a telefonarci. È una di quelle notizie che non vi aspettereste mai, ovviamente una notizia sul sesso. Vibratore nell'intestino per 5 giorni, uomo salvato dai medici. Aumentavo il piacere sessuale con mia moglie a Shanghai. Eccola, sì, questa è la moglie del... Me la fai risentire, per favore? Interessante, la signora con questi dati da fare. Un uomo è rimasto per 5 giorni con un vibratore nel suo intestino. Attenzione, intestino. Un uomo, sì. Per poi ricorrere alle cure dei medici e farselo rimuovere. Lo scrive lo Shanghai Daily. Un giovane di 30 anni si è presentato venerdì scorso la prima volta allo Zhongshan Hospital di Shanghai con il vibratore nell'intestino che, come scrive il giornale, aveva usato per aumentare il piacere sessuale con sua moglie. Ma l'avrà mangiato? Spero per lui che l'abbia mangiato. E si è ricomposto nell'intestino. Il vibratore di 23 cm di lunghezza per 8 di diametro si è bloccato nell'intestino e gli creava dolore. In un primo momento i medici non sono stati in grado di rimuoverlo, per cui l'uomo è dovuto tornare il giorno dopo aver provato in altri ospedali. Il vibratore si era bloccato nelle pieghe dell'intestino e aveva danneggiato alcuni tessuti. Se non avessimo rimosso il vibratore in tempo, ha detto il giornale il dottor Yao Liqing, l'uomo sarebbe morto vibrando. Sì, anche. Ma era acceso il vibratore? Era acceso, esatto. Inoltre, secondo i medici, dal momento che l'utilizzo di vibratori ed altri sex toys sta aumentando in Cina, non è raro che accadano episodi del genere. Vabbè, ma ti ricordi tempo fa che abbiamo letto quella del capitone? Limone, la moglie col capitone, lui col limone. E lui col limone, la moglie col capitone. Tra l'altro, con questa notizia, io ho vinto una scommessa con settimane dopo, una scommessa contro il mio regista Boom qui di fronte, che voi vedete dalla webcam se ci state vedendo in streaming, perché ad un quiz pubblico è uscita questa domanda, io la ricordavo e abbiamo vinto la nostra battaglia Cioè, io perdo storica. Una scommessa pesante. Sì, sì, sì. Tra l'altro potete trovare le foto della, della disfatta del nostro regista proprio sul nostro profilo facebook.com/londainonda, nel quale lui, per diciamo, per aver perso la scommessa, viene in radio in estate con cappotto e sharp. Giubbotto pesante e sharp. Giubbotto era il piumino. Piumino, esatto. Va bene, passiamo subito all'altro pezzo e poi torniamo subito dopo con l'intervista ai Wake Up Call. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Thank you. Berta Filava, siete ritornati sempre qui con L'Onda in Onda, gli studi di Radio Panorama. Ricordiamo che oggi avremo due interviste con i Radio Clone e i Wake Up Call, due band della nostra rassegna indie rock, e ci collegheremo con loro subito dopo il prossimo pezzo, ma prima diamo una notizia, veloce. Trovati un lavoro, la nonna 82enne fa scappare il rapinatore. La super nonna, che è tra l'altro una bisnonna, ha tolto la maschera dal volto del ladro, gli ha strappato di mano la borsa di plastica con il contante che aveva rubato e infine gli ha urlato: il denaro è della banca, se vuoi soldi trovati un lavoro, maledetto scansafatiche. Scansafatiche, da quant'è che non lo sentivi, Bummo? Da un bel po' di tempo, cioè, scansafatiche. Il 92, non lo so. Forse il fannullone. Sì. Il 62, forse scansafatiche è la prossima che dirà, no? La Fornero ai giovani, dopo che ha detto chiusi, voi siete chiusi. Il 62enne rapinatore con svariati precedenti penali è rimasto a mani vuote, si è dato alla fuga nel villaggio di Sankt-Egiden, nell'est dell'Austria, ma è stato identificato e in seguito arrestato. Forse ho visto troppe serie di polizia in TV, ha confessato la super nonna ancora tremolante ai media viennesi. Vienna, come vi abbiamo già spiegato, è nota, una grandissima città nota soprattutto per la sua spumeggiante metropolitana con donne nude nei treni che si aggirano, insomma. È super nonne, pronte a difendervi. Quindi da ragazzi, tutto. Vienna è veramente la metropoli con la metropolitana più bella d'Europa. Dalla prossima settimana L'Onda in Onda andrà in onda direttamente da Vienna. Da Vienna, con Antonio laureato, tra l'altro, quindi insomma saremo veramente molto, molto più forti di prima. Va bene, allora ci ascoltiamo subito, velocemente, un altro pezzo e torniamo con l'intervista con il Radio Clone. When we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, when we left, I didn't know how to follow. It's like a shot that's spun me around, and now my heart's dead. I feel so empty and hollow. Next time you wanna go on a leave, I should just let you go on a leave. favorite drug. The only problem is that you was using me in a different way that I was using you. But now that I know it's not meant to be, you gotta go, I gotta win myself off of you. Come vi abbiamo annunciato nell'anteprima e durante il corso della nostra puntata, abbiamo con noi in diretta Christian di Radio, dai Radio Clone. Ciao Christian, come stai? Ciao, ciao a tutti, grazie, sto benissimo, tu? Benissimo, benissimo Christian, benvenuto all'Onda in Onda. Allora, parliamo subito dei Radio Clone. Avete lanciato il vostro nuovo album che si chiama Velia. Diamo subito intanto diciamo una curiosità sul nome dell'album, che so che non è proprio una cosa su cui scherzare. Sì, Velia è un nome di donna un po' particolare, che è una amica di un nostro amico. Noi non conosciamo questa Velia che ci ha ispirato, ma il suo nome ci ha colpito e quindi abbiamo deciso di titolare il titolo e tutto l'album con il suo nome, che se poi in verità è un protesto, ma non parliamo di lei né nella canzone né nell'album. Credo che la Velia che ti ha ispirato l'abbia saputo in questi giorni, proprio che è uscito un disco che porta il suo nome. Spero. Beh, quindi appunto piacere. Meglio non scherzarne troppo sul nome dell'album, magari potrebbe offendersi. No, ma assolutamente non penso, lo spero, diciamo. Vabbè, no, sicuramente gli farà piacere perché l'album è veramente molto bello. Tra l'altro stiamo ascoltando proprio Velia in sottofondo. Ma senti, parlaci proprio di quest'album. Spiegaci un po' la storia di quest'album e come tra l'altro voi vi siete conosciuti e siete diventati così acclamati, visto che è quasi la vostra tagline. Venite presentati come una delle giovani band più acclamate. Ma allora, acclamate, mi fa piacere, insomma, che ci vedi essere definiti così. Noi speriamo che la nostra musica possa piacere, piace il più possibile. Veglia è il risultato di un lungo periodo di lavoro in studio in cui ci siamo chiusi in quattro mura con i volumi sparati al massimo, e per rimettere giù un po' di repertorio dopo che la nostra band ha subito una piccola variazione, perché siamo partiti nel 2002 in quattro e poi per una serie di motivi siamo rimasti in tre, e quindi abbiamo dovuto fare tutto un repertorio di pezzi nuovi da proporre dal vivo. E il risultato di questo lavoro è appunto tutto raccolto nell'album. Noi siamo insieme comunque appunto da 10 anni, siamo prima di tutto amici, poi musicisti e poi una band. Amiche addirittura. Senti, vedo che le vostre influenze sono le vostre influenze spaziano dai Motor Psycho, Radiohead, Police, addirittura Nirvana, ma le vostre sonorità si rifanno, leggo, a quelle dei Queens of the Stone Age. Sì, è corretto. Nella nostra musica ognuno poi ci mette del suo, quindi ciò che ascolta e ciò che ha ascoltato negli anni passati inevitabilmente salta fuori. Il nome del gruppo invece è stato ispirato da un album dei Queen of the Stone Age che è uscito nel 2002, l'anno in cui si sono formati. Clone Radio. Sì, perché proprio in questo album, tra una canzone e l'altra, si sente questa radio, credo sudamericana, e si chiama Clone Radio. E noi abbiamo preso il nome di questa radio, non so se era o meno. Abbiamo girato al contrario e è uscito il nome della band, che è Radio Clone. Poi noi cantiamo in italiano, quindi chiamiamo Radio Clone. Avete clonato il nome della canzone, della radio, per il vostro nome del gruppo. È una cosa bellissima. Senti, ma al di là di questo, parliamo un attimo dei pezzi proprio di quest'album. Qual è quello che ti colpisce di più? Ma allora, io chiaramente ho un punto di vista differente dall'ascoltatore, perché ci sono dei brani che a me piace suonare particolarmente, ma poi magari non sono quelli che vengono più apprezzati, quindi io mi rendo conto che Emilia, il primo pezzo che c'è sul disco, quello che abbiamo scelto come singolo, è quello che ti rappresenta di più ed è quello che come sonorità, come testo, così ci rappresenta molto. Poi insomma, tutta musica e testi nostri, per cui siamo legati ad ogni brano. Nell'album in particolare ce n'è uno che è un brano acustico, che si intitola Basta, che è un po' diverso dagli altri, ed è un brano a cui siamo particolarmente legati, perché è dedicato a un nostro amico scomparso ed è il nostro piccolo modo. E tra l'altro noi volevamo proprio passare Basta come... come mi fa insomma, molto piacere dopo l'intervista, visto che ve la stiamo ascoltando in sottofondo. Senti, l'ultima domanda: come è stata l'idea dell'autoproduzione e poi se siete in tour o se è previsto un tour? Ma dunque, l'autoproduzione è stata una scelta, non dico obbligata, però insomma siamo arrivati a questa conclusione perché questo ci dava la possibilità di gestire i nostri tempi come volevamo. Chiaramente ognuno di noi ha un lavoro principale e poi come secondo impiego fa il musicista. Famiglia, io tutto, il bassista, anche a figli, quindi incrociare tutto non è semplice. La scelta della produzione ci ha permesso di gestirci in totale autonomia, con i pro e i contro, perché poi farsi conoscere, far girare la propria musica non è semplicissimo, ecco. E noi stiamo cercando di fare più date possibile, ne abbiamo fatte alcune durante l'estate, adesso stiamo cercando di uscire un po' da Biella, sto organizzando dei contatti per delle date a Milano, per delle date in Liguria, per delle date in Valle d'Aosta, però comunque nella nostra zona. Mi piacerebbe allontanarsi ancora un po' di più, venirvi a trovare. Vabbè. Infatti, magari venire qui in Sicilia a trovarci, così saltiamo un po' tutti. Bellissimo, una figata. Così saltiamo un po' tutti quanti assieme. Va bene, allora, noi ti dobbiamo salutare, Christian, ti ringraziamo, vi facciamo tantissime in bocca al lupo e ci ascoltiamo Credi proprio Batta, il vostro singolo del vostro album, ricordiamo, il Radio Clone. Grazie Christian, in bocca al lupo, ciao! Ciao Credi il Lupo, ciao a tutti! Forse l'ultima volta che mi vedi, avvicinatevi finché avete il tempo utile. È umano pensare che a volte si è soli, solo perché è umano pensare. digli tu quel che vuol sentirsi dire a voce alta. E scrivimi se pensi sia la cosa migliore per te. Solo perché umano pensare. Questi erano i Radio Clone con Batta, un pezzo devo dire molto, molto carino. Veglia sicuramente è un pezzo molto più rock, molto più forte, ma questo qui è un bel pezzo da ascoltare anche in macchina tranquillamente mentre si cammina. Ma che cos'era questa qui, caro Bu? Ah, niente, io qua faccio l'impossibile. Puoi partire gli effetti così, ho capito. No, era carina la signora che urlava. Bene, invece ricordiamo ovviamente che saremo in replica questa notte per chi si fosse perso la puntata ed è così masochista da volerla riascoltare. O per chi non l'ha ascoltata e sa che c'è la replica e vuole ascoltarlo, per chi comunque accende la radio a quell'ora e ci becca, insomma, ricordiamo che sfortuna di beccarci. Questa sfortuna, sì, siamo in replica da mezzanotte alle 2 di notte. Oggi, questa notte, quindi insomma fra poco torniamo, non ce ne andiamo mai di qui. Insomma, potete ascoltarci. Soprattutto se avete bisogno di fare una bella ninna nanna, vi consigliamo di stare col nostro amichetto. A proposito di ninna nanna, guarda, infatti senti, lo vedo che sta entrando ora, mi allontano e lo faccio avvicinare al microfono. Ma perché hai questo odio verso questo bambino? Non lo sopporto sto bambino, mi sta veramente sul culo. Non, sul culo? Sì, non ce la fa. Senti, fagli qualche domanda. Fumare una sigaretta, non ok, va, e torno. Michelino, ciao. Oggi. Ciao, piccolo Michelino. Come stai? Così così. Sei andato a scuola oggi, Michelino? Non ci vai a scuola? Non ci vai, non ti piace la professoressa? Com'è la professoressa? Non ti dicono certe cose, Michelino. A scuola ci devi andare. Non ti arrabbiare, Michelino. Ma lo zio, dov'è lo zio oggi? Non c'è. No, lo zio non c'è. Tony Scopelite oggi non c'è, purtroppo. No, ti stai cantando, Michelino? Hai sonno, Michelino? Così ci addormentiamo tutti. Michelino, salutiamo Michelino. Lui se ne va così. Ora lo capisci perché questo bambino mi sta veramente sul culo. Viene, non fa un cazzo. Gli fate qualche domanda. Ma è vero, inutile. Ma è carino. Un bambino è anche brutto. Chi lo vede dalla webcam lo capisce che è un bambino orribile. Cioè, pure la barba. Cioè, fa veramente schifo questo bambino. Ma non ha la barba. Io ne ho visti bambini brutti. È la peluria giovanile. Ma guarda come questo bambino non ne ho visto mai. Ma poi che dice? Non si capisce perché intervistate questi idioti. Ma è Michelino. Ma poi sua madre. Ma è il nipote di Tony. Ma Tony Scopelliti oggi non c'è. L'ha mollato qua. No, io non capisco. Ma perché è rimasto qui? Io sono sicuro, allora io direi. Facciamo un appello ad Antonio che domani si laurea. Tu non puoi non passare la notte, dato che probabilmente adesso starà ripassando il discorso che dovrà fare domani. Adesso, cioè, adesso è bello parlare con due orari differenti. Sì, adesso sì. Alle 19.30 sarà ripassando. È un viaggio spazio-temporale allucinante. Adesso alle 19.30 sarà ripassando, ma questa notte a luna... Quando sarà ancora ripassando, esatto, forse. Non potrà non ascoltare la radio e sapere che non ha portato Tony Scopelliti qui in radio, ecco, con noi. Quindi, insomma, dovrà visto che starà ripassando, gli diciamo, Antonio, non ripassare più. Basta, tanto domani, Antonio. Secondo me, ormai non te la danno. Sei laureato. Che cosa rompe? Non gliela danno. Che c'è me gente qui che si rompe ancora. Basta. Va bene, allora, diamo invece i nostri eventi che consigliamo per il venerdì sera. Chi non sa cosa fare il venerdì sera, io per esempio. Allora ve lo diciamo noi. E quello che vi consigliamo e che vi consiglio io soprattutto sono gli Sliding Charlie and the Blue Snake. Carlo Sliding Charlie, PP pitone, voce e chitarra, Giuseppe Bullsnake Buscemi, batteria. Palermitani ascoltano musica da sempre, dal country al bluegrass, al garage rock, al punk, al folk reggae. Ma la musica che suonano e amano di più è il blues. I due hanno suonato separatamente per diversi anni prima di incontrarsi nel 2004. E adesso, senza rinnegare la tradizione della Windy City, a richiedere di nuove suggestioni, Sliding Charlie and the Bullsnake hanno formato un duo con cui esplorare il blues da un nuovo punto di vista. Nel loro calderone musicale hanno mescolato la musica delle taverne di Chicago con quella del Delta e hanno, l'hanno insaporita con le spezie del blues bianco degli anni 60. Hanno aggiunto il calore delle North Mississippi Hills e adottato un approccio minimale basato sulla simbiosi totale fra chitarra elettrica e batteria, e propongono un repertorio blues grezzo e primitivo. Dove potrete ascoltarli? Al Rocket Bar a Palermo, proprio venerdì alle 22.30, ingresso gratuito. Ve lo consigliamo perché, insomma, fanno una bellissima musica, poi il blues a me piace tantissimo. Ma hai sentito come ho detto bene North Mississippi Hills? Yeah. Non c'è un applauso finto anche per North Mississippi Hills? Grazie. North Mississippi Hills. E from the North Mississippi Hills, io direi di passare al prossimo pezzo, che è Nelly Furtado, Big Ops. Over yet. Ascoltando L'Onda in Onda. stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night, you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall. And now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe what you appear to have achieved, while the rest of these users are just laughing in their sleeves. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And now the tabloids use your face to document your fall from grace. And then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from the dog and duck karaoke machine and Saturday night's drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from your private bedroom dance routines and Saturday night's drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, where they just didn't realize. And it's a long way to come from a dog and duck karaoke machine. Saturday night's drunk. Famous. Behind a steel barrier, sequins and glitter. 5-inch heels still knee deep in the litter. Each of them a bit of bullshitter. Wrapped up in the cloak of fake glamour, getting lost in the clamour. With footprints of fool's gold and diamonds crush the grips on their one-off plimsolls. So little time for these one-off arseholes. Rigor mortis, Ken and Barbie dolls. A pair of big shades and a push-up bra. It's such a short gap between the gutter and stars. But you come a long way from the place that you started. So why'd you wanna go and get so downhearted? Welcome to the kingdom of the blagger. Uncut in your nose, key coat in your bladder. A whole lot happier, a whole lot sadder. Used to be satisfied, now you feel like Mick Jagger. Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger. E torniamo in diretta sempre agli studi di Radio Panorama con l'Onda in Onda qui dagli studi di Termini Imerese. Allora ricordiamo intanto i nostri contatti dopo la pubblicità, sono radiopanorama.info o .eu per chi vuole ascoltarci allo streaming in diretta video e audio, poi facebook.com/londainonda e twitter.com/ondainonda invece per chi vuole scriverci in diretta. SMS al 380 7690204 e ovviamente chi vuole chiamarci allo 091 7840 3899-2688-45230. Continuiamo intanto con gli eventi del venerdì sera, dato che non sapete mai cosa fare. Vi abbiamo dato quello degli Sliding Charlie and the Blue Snake poco prima della pubblicità, al Rocket Bar a Palermo per chi vuole ascoltare un bel po' di blues alle 22.30, ingresso gratuito. E invece chi vuole ascoltare un po' di cover importanti, vi consigliamo il concerto dei Tre Terzi a Il Ricovero a Palermo, 22.30, ingresso gratuito anche lì. I Tre Terzi sono molto bravi, vi consiglio di andarli a vedere se non volete ascoltare il blues. Ma invece per chi vuole insomma fare un po' di revival, un po' di musica sempre cover, c'è un tributo di Purple degli Spitfire, che sono una super band costituita da alcuni tra i musicisti più rappresentativi di Palermo, che amano il rock e i mitici anni 70. Attualmente il gruppo lavora ad un tributo di Purple. Il gruppo è composto da Alessio Taormina alla voce, Simone Campione alla chitarra, Fabio Forte all'organo, Marcello Castellucci al basso elettrico e Ferdinando Piccoli alla batteria. Al Piper, non è il Piper, è proprio il Piper a Palermo, 22, ingresso gratuito. Quindi il venerdì sera insomma avete tanti eventi ai quali potete partecipare. Ricordiamo che questa puntata sarò solo perché Antonio ci ha abbandonato, in quanto domani si laurea, quindi rinnoviamo nuovamente l'in bocca al lupo e gli auguri. È l'una invece e mezza per chi ci sta ascoltando. No, non è vero, non è l'una e mezza, è l'una e 10 minuti per chi ci sta ascoltando, sì, sì, in replica, che ancora mentre lo dico non c'è, quindi sì, per chi ci sta ascoltando adesso, ma non è adesso. Ma non è adesso per noi, per noi è il passato. Per noi è il futuro. Per noi è il futuro, sì, è vero. Però chi lo sta ascoltando nel futuro sta ascoltando il passato. Quindi guardate, bellissimo, ragazzi, cioè noi siamo una trasmissione. Oh, ma veramente, l'ho trovato una trasmissione così bellissima. Cioè facciamo viaggi spazio-temporali qui in diretta. Viaggio spazio perché siamo sempre qui. No, spazio perché poi ci trasferiamo pure noi ad ascoltare la radio a casa. È vero, quindi è vero. Saremo noi stessi ad ascoltare noi nel nostro passato, ma ci ascolteremo nel nostro futuro. Quindi guarda che cos'è, è una filosofia proprio veramente così. allucinante. Va bene, allora continuiamo con le nostre notizie incredibili. La pelle del craneo si deforma e diventa come un grande cervello. La cute che circonda il craneo solitamente rimane invisibile o comunque celata dai capelli. Ma ad un ragazzo brasiliano di 21 anni, di cui non è stata diffusa l'identità per motivi di privacy, per motivi di capelli. Hai sentito privacy? Sì, ma tu ormai sei in English. Privacy. Il cuoio. Capelli. Poi vedi, dici privacy e poi cuoio. Impappini. Il cuoio capelluto è iniziato da 2 anni a subire strani cambiamenti. La cute sembra aver preso le sembianze di un enorme cervello. 2 medici brasiliani hanno studiato la rara malattia del ragazzo, chiamata cutis vercis girata, ed hanno scoperto che come? Cutis verticis, ecco. Vergis. Non so, va. Verticis girata, hai ragione, ma però posso dirti che l'ho detto così per un motivo di privacy. Ed hanno scoperto che oltre all'effetto estetico non ha particolari conseguenze sulla salute. Il dottor Karen Shons, no, perché sai, non bisogna essere mai chiusi. Un dermatologo dell'ospedale universitario di Santa Maria, che lo ha in cura, ha detto: il ragazzo, scongiurate eventuali altre conseguenze, non ha problemi con la malattia. Anzi, solitamente gira con la testa rasata e scoperta. L'aspetto fisico non lo preoccupa. La cutis verticis girata è una malattia che, secondo molti studiosi, è correlata a disordini del sistema cognitivo. Non sono stati riscontrati in pochi casi manifestati effetti collaterali ulteriori, oltre agli evidenti segni sul collo, cuoio. Io sul oggi non lo voglio. Cuoio non c'è. Tu vai. Sul capelluto. Che tuttavia potrebbero essere risolti con costose operazioni chirurgiche. C'è la foto. Cioè, è figo. È abbastanza figo. Figa. Sì. Cioè, immaginate, ascoltatori, no, che voi avete la testa rasata, ovviamente, senza capelli. Però la testa non ha una forma tonda. La forma del cervello. La forma del cervello. Bellissimo. Con tutte le sue, insomma, Venature, non solchi, so come chiami, solchi, sì. Quindi dovremmo chiedere a Antonio Panzica, esatto, com'è. Però solo domani, quando è già laureato. Sì, perché però non lo sa. Non lo sa ancora, non è dottore, quindi non lo sa. Non può saperlo. Rinnoviamo insomma i nostri ringraziamenti ai nostri ascoltatori che contatto affetto ogni mercoledì si collegano per ascoltarci o ci ascoltano in macchina. Sì, salutiamo anche mia mamma. Salutiamo anche la mamma di Pummo che ci sta ascoltando, insomma, quindi siamo tutti felici. E le dedichiamo allora il prossimo pezzo, no? Proprio il prossimo pezzo, che è un pezzo che pompa. È un pezzo che pompa. Il nostro amico, no, chi? Santo Stefano. Ah, Rambo. Rambo, che Rambo. Purtroppo ci ha dovuto salutare, non ci ascolta più purtroppo. No, se ne andà, dice che la politica lo chiama. Eh sì. Se quando scende Rambo in politica, insomma, è finita, è dura. Ci ascoltiamo gli M.O.P. Queens, Long Island, Staten Island, Uptown Harlem, or the BX. All my real niggas with the 20 inches outside, you know what I mean? Fake niggas, get the fuck out and hold on to your shit, you know what I mean? Fun flex, one time for your motherfucking mind. Questa è la signora che è qua dietro. Salutiamo Antonio che ci sta ascoltando mentre si taglia i capelli, quindi salutiamo anche il suo barbiere. Che sì, salutiamo tutti. Salutiamo tutti. La parruccheria. Salutiamo le associazioni di tutti i barbieri. Si salutiamo i barbieri di tutto il mondo, insomma. Sì, ci aiutano ogni mese a tagliarci i capelli. Esatto, anche quello di Siviglia. Sì, più importante il del barbiere. Più importante, quello più conosciuto. Va bene, va bene. Allora, invece, cosa fate voi il sabato sera? Tu che fai, Boom? Bah. No, non lo sai. Proprio in questo momento non lo so. Non lo sai. Allora te lo posso dire io. Perché per gli eventi del musicali. Gli eventi. Sì, gli eventi del musicali potrebbero essere anche in quel del Palermo. Sì, esatto. E infatti vediamo proprio in quelli del Palermo. Ma che cosa ho detto? Niente. E in questo momento cosa succede? C'è Antonio che sarà sulla sedia del barbiere a ridere, no? Sì, e si sta sminnando. E si sta sminnando tutto perché capelli. Il barbiere dice: stai fermo, no? E se domani non, posso... non si lavorerà per colpa nostra perché esatto, abbiamo perché fatto. Perché la forbice si è infilata nel cranio di Antonio. Allora, si presenta con un crestino tutto. Sì, tutto figo. Jesus Sounds in concerto. Concerto degli Jesus Sounds sul palco. Un repertorio di cover rock degli anni 60 e 80. Ore 23, ingresso gratuito al Pink Pinkish di Palermo. Il Pinkish, però cos'è? Un tra Pink e l'Irish, bellissimo. Vabbè, Pinkish. Pinkish. E poi c'è Fiesta Tosta. Sul palco dell'Arcibarcollo si esibiranno gli Zyron Metal Sperimentale, che insieme a perché cioè questi gruppi sono lui. Allora, gli Zyron Metal Sperimentale, che insieme a Nea Darks, Symphonic Metal e i Firehead, che sono quelli più facili da leggere, rock pro cover delle Zeppelin e Pink Floyd, scateneranno una fiesta tosta con la presentazione dei loro ultimi inediti alle ore 21, 3 ore all'Arcibarcollo. Questo tutti insomma, a fare casino all'Arcibarcollo. Ma tutti casino all'Arcibarcollo veramente, perché insomma... infatti, già la gente si prepara, cioè metal sperimentale, symphonic metal e rock prog con i Led Zeppelin e i Pink Floyd. Quindi, insomma, ragazzi, mica codica. Poi per 3 euro, cioè, si va. Sai che una volta sono andato volontariamente, ho incocciato così. Ma che stai dicendo? Cioè, perché stavo dicendo, sono andato con una serata growl, ma non ci sono andato volontariamente, cioè non lo sapevo che c'era una serata growl. Mi sono seguito tutta una serata growl, è fantastico, anche perché il cantante è una cosa... cioè, difficilissima da fare. Sai perché cos'è? Urla come un pazzo. Sì. Sì, sì, non so cos'è il growl. Cioè, in realtà, è difficile credo, da fare. Cioè, no, ma guarda, così. Credo che vadano di diaframma, quindi non stanno urlando di gola. Cioè, ma penso, non lo so. Non cioè, lo so, però sì. Poi ho conosciuto pure... ma le canzoni cosa dicevano? Mamma, comprami il latte. Non lo so, cioè, non lo so. Non lo so, cioè. Ruttavano. Anche perché io sono rimasto così, non conoscevo il growl prima di allora. No, davvero? No, non lo conoscevo. Ma va bene, va bene. E continuiamo invece con i Wild Desire in concerto. E i Wild Desire al Poi Si Viri, cover band hard rock blues che è pronta a farvi ascoltare i pezzi storici della musica internazionale degli artisti più rappresentativi di questo genere. Di nuovo dai Led Zeppelin ai Queen, da Gary Moore ai Cream e dai Rainbow agli Steppenwolf e tanti altri. È proprio un radiofono. E tanti altri. Alle ore 22 ingresso libero al Poi Si Viri a Palermo. Questo evento è sabato sera. Tu lo so che mi hai sottolineato. Soltanto per il nome. Lo so. E basta. Poi è tutta facile da dire. Non è difficile. Certo. Serata. È difficile. Dvorak, sarà un russo, non so. Diretta da Aldo. No, Ceccano. Sono siciliano. Perché Dvorak? Non lo so. Ma perché? Un intero concerto del... Ma poi Dvorak è scritto con... cosa sono? Cioè, è Dvorak. Cos'è quell'accento sulla E? È come la vodka. Ah, è Dvorak. È Dvorak. Dvorak. Antonin Dvorak. Ho capito. Un intero concerto... di Aldo Ceccato. Cosa mi ridi? Di chi è questo concerto? Di Aldo Ceccato. Ah, ho capito. Un intero concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana dedicato alla figura di Antonin Dvorak, compositore nato nel cuore del mondo slavo. Hai visto che era è cresciuto nel contesto del nazionalismo musicale boemo, di cui fu con Smetana. Quale Smetana? Cos'è Smetana? Smetana e non Mentana. Sì, esatto, pensavo che fosse quello del TG, non la 7, del TG8. Smetana e Gian Cech. Antonio sta male. Gian Cech, ma li stai sbagliando tu. Ma tu se tu mi dai Dvorak, io poi non riesco più ad andare avanti. Antonio in questo momento sta morendo, lo sai. Quindi Smetana e Gian Cech. Il massimo esponente di una serata interessante sia dal punto di vista storico che altro. Alle ore 17:30 da 25 a 10 euro. Io gliene spendo anche 50. Ma come da 25 a 10 euro? Sì, o di più o meno. I posti vanno da 25 a 10 euro, non si sa. Cioè quelli più lontani costano 25 euro, quelli più vicini 10 euro, sì, al contrario. Al Teatro Politeama Garibaldi a Palermo. Io ci voglio andare sabato, mi voglio invece andare a vedere i Gisanson, la Fiesta Tosta, da vedere Dvorak, Smetana e Janacek con Smetana. Che stasera, no? Fra poco inizia il TG, la 7. No, il TG non la 7. Non la 7 con Smetana. Va bene, l'ultimo Sound Juice Quartet Live. Il gruppo ripercorrerà i più grandi successi della musica rock, blues degli anni 70 e 80. Beatles, Queen, Free... Creedence Clearwater Revival, che sentite in sottofondo, i Depeche Mode, i Simple Minds e molti altri, tutto in chiave acustica. La band è composta da Piero... Io non voglio sbagliare, Gian Malva, Ho detto giusto. Voce, voce e colori: Roberto Alasia, basso elettrico, Nicolò Florio, chitarra acustico, e Daniele C. Non è dato sapere come si chiamerà. Vabbè, grazie. Ciao, Sandra, ce l'ha fatta. 22, ingresso libero allo Strauss Wine Bar di Palermo. Va bene, andiamo subito col prossimo pezzo. Salutiamo Antonio che morirà, e anche il suo barbiere. Cioè, continuiamo a salutarlo. Twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Dico, secondo voi nell'ultima serata, l'ultima notte mi ha preso a vivere della mia vita da studente, io non venivo in radio anche solo per 35 minuti. Grandissimo. Salutiamo Antonio che è arrivato in ciao, radio. Ciao ragazzi, ciao. Gli ragazzi, applausi. Cioè gli praticamente applausi. Tu finalmente hai pure gli effetti. Finalmente ho gli applausi. Ragazzi. Faccene un altro. Applausi per gli applausi. Applausi per gli applausi. Ragazzi, salutiamo Nicola, il mio barbiere che ancora ci sta ascoltando. Sì, l'abbiamo, e visto che... temevamo che ti avesse tagliato la testa. Sì, infatti. Tutti i errori. E domani devo parlare decapitato. Luca ha fatto il record. Senti, oggi, Andrea, ma... ha sbagliato tutta una tutto? Notizia, tutta la sbaglia, tutta. Senti. Tutto. Questo l'hai letto in Contrabassic no, Park. Senti, ma perché non rileggi tu questo e vedi se ce la fai? Io non ti ho sentito, però. Attenzione. Veloce, quanto veloce? Sì. Velocissimo. No, non velocissimo. Serata a Dvorak, diretta da Aldo Ceccato, un intero concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana dedicato dedicata alla figura di Antonín Dvorak, compositore nato nel cuore del mondo slavo e cresciuto nel contesto del nazionalismo musicale boemo, di cui fu con Smetana e Janáček il massimo esponente. Una serata interessante sia dal punto di vista storico, il resto non c'è dato saperlo, c'è una parentesi con dei puntini inquietanti. Ore 21:15, da 25 a 10 euro, Teatro Politeama Garibaldi, Palermo. Quindi tu nel tragitto ti sei perso l'esistenza di Smetana. Poco fa lui ha detto Smetana, che comunque fa il paio con Paramenier, perché comunque rientra sempre con Enrico Mentana. Lui è Smetana, cioè l'antigiornalismo. Esatto. Ovviamente Smetana è l'antigiornalismo. Ma infatti probabilmente fra un po' è Janáček, questa... poi l'altro era Janáček, che è diventato... è un po' tipo Gianni qualcosa. Sì, Janáček è l'uomo del soundcheck. Chiama Janáček. Bellissimo, no, veramente grave. Peccato che me lo sono perso. Lo riascolterò. La notizia qual è? La notizia è che fra un po' di giorni ci sarà un nuovo programma su una rete, la Non Rete, sì, condotto da Smetana e Vara Menier. E Vara Menier sulla Non Rete. E poi sai che è un'idea, potremmo inserirlo anche ovviamente delle pillole nell'onda in onda. Il fonico non può essere che Janáček. Ragazzi, avete fatto il Janáček? Sì, Janáček. Comunque, sì, dobbiamo assolutamente poi inserire delle pillole del programma. Allora, per quel che riguarda invece l'intervista ai Wake Up Call, abbiamo qualche problema, nel senso che il cantante ha un cellulare che col quale non riusciamo a collegarci. Quindi, in caso la faremo mercoledì prossimo, vediamo se. E invece, qui con il radio clone è stata fatta. Ma te la sentirai questa bellissima notte. È stato bellissimo il pezzo che abbiamo dei radio clone? Sì, sì, sì. Come si chiama? Batta. No, non pensare. È un congiuntivo esortativo? Cioè, no, signora, lei batta. Io intanto me ne vado in giro. No, non è un congiuntivo esortativo. E che non cosa so come dire, ha fatto a dirlo così velocemente? Perché io avrei perso. Tu immagini Andrea che diceva congiuntivo esortativo? Già congiuntivo era strano. Meglio Janáček a sto punto. Sì. Comunque, meglio Janáček. Come stai, Brumma? Ma io bene. Bravo. Basta, finita. Volete farvi anche ancora i cazzi vostri? O magari. Secondo me ci torniamo dopo con la pubblicità. Esatto, un po' di pubblicità. Torniamo dopo. Sono le ore 19:58. Ci tornati qui sempre in diretta con l'onda in onda da Radio Panorama. Chi vi parla è Antonio, che vi ha raggiunto da pochi minuti. E lì c'è Brumma dall'altra parte dell'acquario che nuota con i pesciolini. No, no, l'acqua l'avete voi. L'acqua l'abbiamo noi. Eh sì, noi. Perché noi siamo nell'acquario. Ah, è vero, noi siamo nell'acquario. Lui, giusto, tu sei nella... Cioè, lui, Antonio, non ha ancora capito chi, no, chi è il regista. Io ero convinto. Ti spiego, pensavo che entrambe le metà fossero acquari. No, sai cos'è? No, se no sarebbe una piscina. Eri un attimo nella non radio. Sì. Eri un attimo nella non radio. Nella non radio. Con Smentana. Smentana e Giancek. Infatti c'è Spanziga. Spanziga e Smassaro e Smontemagno. Smontemagno è bellissimo. Smontemagno. Sembra il coso tipo. Un giorno cercheremo di chiamare Mentana al telefono per fargli sapere che esiste Smentana. Esiste l'antimateria della sua persona. Esatto. Diciamo. Invece ci ha chiamato poco fa mentre eravamo ascoltando in diretta. Chi? Sono curioso. Il Colle. Ah, che da tanto tempo stiamo ascoltando Shakira, ci ha chiamato il Colle. Mentre c'era I'm Addicted to You. Sì, esatto. E insomma, freme per... Ma guarda, poi di prepotenza. Di prepotenza, cioè... è entrato. Ho detto freme, invece. Perché hanno preso la linea. Hanno la precedenza. Sì, vabbè. Ovvio. Sentiamo un attimo, scusate. Intanto alzatevi, per favore, a casa. Sì, io vado in bagno. In macchina, siete in macchina, alzatevi. Alzatevi in macchina. Vabbè. Alzatevi in macchina. Se non avete la decappottabile, sfondatelo con la testa. Io vado in bagno. È mano sul cuore, vai in bagno. Perché credo che... Me lo passi in cuffia? Eccolo. Pronto? Pronto? Pronto, presidente? Presidente? Stamporo è fantastico. Pronto? È una lingua africana che ho imparato qualche giorno fa. Buongiorno anche a lei, presidente. Ma io veramente non ho detto mai buongiorno. Appunto, quindi, per dire, no, buongiorno. Mi fa pure al ripassato. No, guardi, no, che gliela faccio io. No, non mi permetterei mai. È stato soltanto un volevo così. No. È stato soltanto un volevo errore, così. Un errore. Lei è cosa di fare programmi sì. con Smentana e con Giangio. Infatti, io non capisco perché vengo qui, presidente. Forse dovrei stare. Non l'ha capito praticamente tutta a Termini perché lei va lì. Ma anche oltre, anche alle Olie se lo chiedo. Addirittura, perché arrivate pure alle Olie. Sì, ah, infatti, ho sentito a parlare. Quando era, infatti. Io ero a Panarea, sì. Ci ascoltava, ci ha chiamato anche da lì. Io vado ogni estate a Panarea, ogni estate compro una casa e a fine vacanza sapete che faccio? La vende. La brucio. La brucio, ma sì, come? A Panarea? È per passare il tempo. Ma no, ma sì, no. Sì, tanto. Senta, poi a ricostruire. Ma a proposito delle case, no? C'è il processo Rubi, Berlusconi. Ma processo accusato... vuol dire a favore del water, il processo. No, presidente, l'udienza. Pensavo. Ah, l'udienza, sì, sì. Ci stava l'udienza per Rubi. Sì, il processo così denominato, sì. Rubi. Il, no? Salva Rubi. Sì, no, no, no. Che quelle... poi erano i rubli, no. Le monete. Presidente, si concentri un attimo, per favore. Okay. Si calmi un attimo. Mi ero un poco perso. Sì, era un po' perso. Abbiamo notato. No, il processo Rubi, sì. Berlusconi è stato accusato di comprare le case dei testimoni come quelle dei Picella, no? Al, sì, doppio del valore. Assolutamente. Ma lei cosa ne pensa? No, bisogna un po'. Io penso che bisogna un po' favorire la musica che porta a Picella. No, no, presidente, dico. Non, io non conosco la musica di Picella, però ho sentito due pezzi di molto Picella. Bello. Come molto bello? Ah, lei è. A me piace. Ah, perché è napoletano. Ah, sono napoletano. Di nome e di provincia. È, diciamo, vero, sì, ha ragione. E di natura, e quindi ci tengo alla musica. Ha ragione, di allora, cambiamo domanda. Allora. No, no, presidente della Repubblica. Scusate, mi fa, il regista deve fare qualche segnale che da qui dalla webcam non vedo bene. Non so cosa. Forse cosa vorrebbe passata mia moglie. No, non credo che. Ma poi lei come fa? Ah, ma lei ci segue in streaming. Dalla web, che io vi sto guardando dalla web. Ha ragione. Se, ma lei si trova al Colle in questo momento, no? Assolutamente sì. Parliamo, Colle Albani. Allora, parliamo, sì, guardi, non commento. Parliamo della legge anticorruzione, no, presidente? Assolutamente sì. È stata votata, no? Ma sì. È stata accusata il Parlamento, il governo, di aver fatto una legge. Io condivido il pensiero. Tralascia, sì, determinate fattispecie giuridiche, no? Lei cosa ne pensa di questa legge? Secondo me sta parola l'avrà letta 100 volte, perché per dire fattispecie giuridiche, Andrea Massaro, no, l'avrà letta più di 100 volte. Intanto sono onorato, no, che il Presidente della Repubblica conosca, sì, il mio nome, sì, parli con me ogni mercoledì. Insomma, sì, una cosa bella, dura da 3 anni. Ma giurutto, no, un po'. Però, ma dico, presidente, quando lei se ne andrà, no? Poi mi risponde la domanda: quando lei se ne andrà, come faremo noi? Continueremo a chiamarla. Certo, no? Sarò presidente emerito di questa lei gran sarà senatore a vita, presidente. Questa gran Coppa della Repubblica. No, sarò in coppa, sarò un coppa. Colle. Ah, in coppa, cioè. Guardi, sopra io, mi mancherà così tanto il Colle che ho già detto a Clio accatta una tenda che ci mettiamo lì a dormire pure quando scendo dallo scranno. Ah, capito, lei è sullo scranno. Esattamente, io dormirò sempre al Colle, quindi. Senta, se vuole chiamarmi c'è una cabina telefonica vicino. La domanda, dico, sì, lei cosa ne pensa di questa legge anticorruzione? Io condivido il pensiero di Maurizio Vittinagrozza. quello che fa le copertine di Ballarò. È Maurizio Crozza. Ah, non è Vittina Crozza. Non è Vittina. Pensavo fosse siciliano. Non è Monica Vitti. Vabbè. Non è Monica Vitti. Allora io condivido il suo pensiero, perché chiederà a questi deficienti del Parlamento di farsi una legge anticorruzione, come chiederà Giovanna d'Arco di prendere la legna per il falò. Capisco, quindi, Presidente, ma questo non è il pensiero caso. Molto condivido. Profondo, no, da parte sua. Per il resto io... Ma lei ha fatto un monito. Dico, sì, sì, è 25 pollici, l'ho preso in offerta da Cascino quando sono andato. No, non faccio pubblicità. No, così. Nel senso nella cascina in campagna. Ah, sì, sì, era un monitor 25 pollici. Capisco, allora, sarà che è anche il nostro sponsor, però magari lei al colle non lo sa. Ma senta, non si asciughi il sudore, non si preoccupi, no, nomino anche gli altri. No, no, ma non un euro. No, guardi, Media presidente, per favore. Voglio dire, l'ultima domanda, poi la lasciamo andare. Assolutamente, sono un gare, vado quando dico io. No, se voglio restare, resto anche se voglio. Andrea, ricordati che è il presidente, no, cioè decide lui. Sapete che vi dico, io resto per tutta la puntata, ogni tanto intervengo. No, va bene. Mi lasciate il telefono aperto, sennò vi in radio. Senta, presidente, mi scusi. Il radio? Ma lei che film guarda? Film brutti. Solo ma brutti. Sa che noi fra pochettino ci colleghiamo con... ma infatti sono diventato un fan della vostra rubrica e non posso perdere mai una puntata di Marco, perché seguo i suoi consigli alla lettera. Allucinante. Va bene, allora guardi, lancia lei il prossimo pezzo e poi torniamo con, certo, Marco. Mi indicate qual è il prossimo pezzo? Ma guardi, è un pezzo famosissimo, tra l'altro non lo mettete mai, cioè nelle ultime quattro puntate ho sentito solo questo. Ci ascoltiamo Michael Jackson con Billie Jean. Billy e Gino sono due fratelli. Come Smentana e John Jake. Eccoci qui, tornati in diretta sempre su Radio Panorama. E mentre i miei compari di viaggio, diciamo di radio, ma sì, parliamo, sì, tipo a casa, vai, vai, continuiamo. Siamo sempre qui in diretta dagli studi di Termini Imerese di Radio Panorama. Io sono Antonio, domani mi laureo in medicina e sti cazzi a qualcuno, però insomma, son soddisfazioni. E mentre intanto il regista si litiga al telefonino con non so chi, io proverò a raccontarvi qualcosa di interessante. Per esempio, volevo chiedervi cosa ne pensate dei 7 titoli di Tour de France revocati a Lance Armstrong a causa dell'utilizzo del, diciamo, perché ha fatto ricorso al doping. È una cosa molto triste e molto grave, perché comunque perdere 7 titoli di uno dei massimi, forse non la massima corsa ciclistica mondiale, non è certo una cosa bella. Qua intanto sì, l'allera, le sedie, l'allera, chi è l'allera? Scusate. L'allera, no, era una frase io voglio sentire subito Brumma, perché leggo lì bambina del tombino aiuto. Perché del tombino? Io non sento il rimbombo nel tombino. Non lo so perché. Cioè, tu renditi conto, rimettilo un attimo. Aiuto. Ah, quindi una bambina che cade in un tombino, questo è il suono che senti. Aiuto. Cioè, vedi come te lo riproduco al volo, così. Vabbè. Aspetta, perché a proposito, aspetta, rimetti la bimba, perché forse c'è qualcuno che può aiutarla. Rimetti un attimo. Bambina. Michelino che si china verso. Bambina. Bambina. Bambina. Non fare così, è morto. Mi sa che non risponde più. La bambina è morta. Michialuccio. Michialuccio, la bambina è morta. Non è uno stadio, bambina. È morta, non c'è più. No, la mamma non lo so. Sai dove è la mamma di Michialino? Attenzione, il rullo di tamburi. La bambina è viva. No, non è il rullo di tamburi. Che cos'è sto suono? È la marcia funebre. Ah, scusa, pensavo che fosse il colpo di scena. Colpo di scena, signori ascoltatori. Allora abbiamo il piccolo Michelino. Come stai, Michelino? Va bene, allora io sono Mike. Allora la bambina è andata via, ma sono tornato io dall'aldilà. Sei contento di giocare con me? Allora abbiamo il piccolo Brumma dall'altra parte. Allora Brumma, come stai? Lo sai chi sono? Lo sai? Non ti sento. Non so chi sei. Dovresti accendere il microfono. Ah, mi fa segni strani. Non è una normalità che questa marcia funebre. Io vorrei ascoltare la patata, perché quando leggo la patata, per curiosità, mi fai sentire il file la patata? Aspetta. Non può. Va bene, allora questo bambino siamo... comunque a me rompe i coglioni. Ma comunque vedi che Michelino hai visto un animo d'oro, comunque si è avvicinato alla patata. Viva sempre! Allora, scusate. Allora, signori, siamo qua in una balera delle mie Romagne. Prendete le vostre signore e balliamo la patata, tutti insieme! Hey! Scusate, oltre a queste minchiate. Ma no? Scusa, ma Raul Casadei credo abbia scritto. Beh, eravamo patata. Un programma semiserio. Sì. Invece... Scusa, possiamo fare. Eravamo. C'è qualcuno al telefono? Sì, c'è qualcuno. Possiamo fare risentire un pezzo della patata a Marco, che secondo me apprezzerà. Vai con la patata, vai! Viva la patata! Hey, hey. Ragazzi, io mi dissocio. È viva la patata, è viva chi l'ha creata ed è viva Marco con i suoi film brutti. Vai con la sigla. Aspetta, è bello quando fa questo. È bellissimo. Marco. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. Ciao Marco! Ciao grandissimi! Marco, scusaci il cazzeggio totale, ma domani sarà pure che mi laureo, quindi qui si fa casino, è come se fosse allora già festa. E allora in bocca al lupo alla crepi, grande. Crepi sto lupo di merda. Sì, scusaci se qui ci siamo lasciati andare anche a viva la patata e viva chi l'ha creata. Ma viva sempre la patata! Bravo! La grande, applausi. Bravo Marco! Grande. Ascolta, Marco. Ma che film ci proponi per oggi? Allora, visto che ci stiamo avvicinando alla fatidica data del calendario Maya, no? In quella del disastro totale. Sì, tra l'altro andiamo... Marco, io voglio farti una proposta. Guarda che noi il 20 dicembre, giusto, il 20, faremo la puntata finale dell'ultima puntata, sì, del mondo, esatto. Speciale, lo faremo di sera intorno, sì, alle 10, arriveremo fino alla mezzanotte per salutare insieme il mondo. Facciamo una puntata che è la fine del mondo. Quindi se tu vuoi partecipare e consigliarci dei film da guardare in quel, magari lo chiamiamo a inizio puntata, così magari ci ascoltano e nel frattempo vedono il film. Sì, infatti, così lo chiameremo a inizio puntata, commentiamo, sì, così vediamo chi si unisce a vedere il film. Sarebbe un bel modo per salutare la Terra. Tutti in realtà, la Terra, tutti, l'universo, Marte, un po' tutto. Va bene, allora dici cosa ci consigli questa settimana? Allora, questa settimana parliamo di Magma Disastro Infernale, che è un film del 2006, americano, un film appunto dove la calamità naturale destinata a distruggere il pianeta sono appunto i vulcani. Marco, io voglio comunicarti che ho visto questa porcata. Beh, forse l'ho vista anch'io. Sei un uomo fortunato. Forse l'ho vista anch'io. Orripilante. Esatto, infatti il film prende lo spunto, diciamo, da questa teoria Exodus di questo scienziato che sostiene appunto che la Terra sia destinata a essere distrutta dal risveglio contemporaneo di tutti i vulcani inattivi del mondo per via di un'eccessiva pressione, non si sa perché, del nucleo della Terra. Chiaramente lo scienziato viene deriso da tutti, da tutto il mondo, fin quando appunto un vulcano inattivo decide di risvegliarsi e fagocita tre poveri geologi. Qui uno capisce subito proprio di che levatura sia il film, perché la scena è veramente pessima. C'è praticamente un tappeto persiano che simula la lava appiccicato in malo modo al girato, che inghiotte due di questi geologi, il terzo finisce dentro una teglia di pizza margherita praticamente. Gli effetti speciali sono veramente bruttissimi, appiccicati con lo sputo, una computer grafica veramente poverissima, ma questo in fondo è il punto forte del film, perché il regista, diciamo, non si risparmia. Chi è il regista? Chi è il regista? Scene incredibili, sempre con questa computer grafica tristissima, con questi tappeti persiani che a un certo punto invadono lo schermo e cancellano ogni traccia di vita, fino poi all'insulso finale, nel quale sparando tre missilini, diciamo, nel punto giusto, e tutto questo meccanismo di vulcani che si risvegliano viene diciamo bloccato, non si sa bene perché erano finiti i soldi per il film e quindi andava finito, insomma. Certo, il motivo vero poi è quello. No, tra l'altro, Marco, io ho scoperto questo film, cioè lo sono andato a guardare perché era proprio nel tuo sito, è uno di quelli che mi ha incuriosito di più, proprio per scrivi testualmente il magma Photoshop. Sì, esatto. Guarda, io l'ho visto ed è, cioè, veramente brutto. Però non può non vedere, cioè, l'ho visto soffrendo. Non si può non vedere. Sì, sì, l'ho visto soffrendo, quindi anch'io voglio consigliarlo insieme a te. È veramente orripilante. Ma dici qualche altra scena clou, cioè continua. Guarda, io ho apprezzato tantissimo quella in cui si assiste alla morte del vecchio scienziato, che ormai contento, no, che la sua teoria sia vera, si rifugia in una casa sotto il Monte Fuji, sì, geniale, sì. E praticamente viene bombardato di lapilli, anche questi ovviamente appiccicati con appunto l'effetto magma Photoshop. È bellissimo il contrasto fra le scene degli esterni e degli interni. Sì. All'esterno c'è il finimondo praticamente. E dalla finestra dentro. E dalla finestra della casa non si vede niente. Sì. Vedete il cielo azzurro, il sole che splende, è veramente fantastico. Vedete? Proprio proprio il concetto proprio di fare un film così come viene, non si riguarda nemmeno che si è fatto. Tanto va bene uguale, insomma, fantastico, insomma. Marco, noi ti ringraziamo per questo film. Una perla. E ti direi di conservare insieme a noi i film, proprio questi qua, bruttissimi, della fine del mondo, apocalittici. Tutti per quella data. I più brutti dei film brutti. I più brutti dei film brutti, proprio sì. da darli uno o due, magari. La notte della fine del mondo, se vorrai partecipare insieme a noi, se non hai niente da fare, l'ultima notte del mondo. Senz'altro, molto volentieri, faremo praticamente una mini raccolta di film catastrofici per sì. morire tutti insieme contenti. Bravissimo. Sì, sì, no, soprattutto anche magari vederci delle scene mordi e fuggi, no? Sì. La scena non per forza tutto il film, anche la scena brutta singola, così moriamo, insomma. Ma poi se lui ne suggerisce tipo, che so, 3-4, i nostri ascoltatori avranno possibilità di scegliere con quale film morire, cioè l'ultimo film che possiamo vedere. I giocatori devono morire con noi in puntata. Ah, ok. Però vabbè, magari consigliamo. Sì, consigliamo, magari guarderanno alcune scene ascoltando la radio. Possiamo scegliere, diciamo, delle morti particolarmente truculente, diciamo, per esorcizzare e poi sì. avere una specie di catarsi, insomma. E chi meglio di Marco? No? Sì, assolutamente, quindi, assolutamente. Ti diamo questo impegno in diretta, Marco, quindi ti aspettiamo a morire insieme a noi il 20, come tutti gli il altri. Il 20 dicembre, sì. Ma accolgo l'invito con molto entusiasmo. Grazie, Marco. Ma soprattutto continuiamo ad aspettare Marco come ogni mercoledì, sempre qui sull'Onda in Onda, e ti ringraziamo per questa bruttaggine di sì, film. No, scusami, grazie velocemente, mentre parte il pezzo, dici con che cosa dobbiamo guardarlo, cosa mangiamo. È vero, cosa mangiamo? Ma io direi marshmallows, perché come sapete vanno un po' tenuti sul fuoco, no? Certo, perfetto. Con un vulcano. Sono a tema. Allora, per tutti, marshmallow è sul magma. Sul tappeto persiano del esatto, magma. Esatto, su magma, disastro infernale. Grazie Marco, e intanto grazie, ci ascoltiamo un gran pezzo reggae, Bob Marley and the Wailers con Stir It Up. Sei un cretino. Domani ti laurei e sei più cretino. Che cazzo dici, mi laureo? Sì, ti laurei. Minchia, me ne ero dimenticato un po'. Appena metto le cuffie e vado fuori dal mondo. Meno male che te l'abbiamo ricordato. Meno male che Smentana c'è. Smentana. Hai sentito che i Cesaroni usano la musichetta che ricorda meno male che Silvio c'è? No, non l'ho sì, sentito. C'è la scena tipo questo, l'hanno fatto vedere alla Striscia, di Amendola che dice a Elena Sofia Ricci. Ah, Striscia condotto da Ezio Sgreggio. Ezio Sgreggio e Michelle Sbunziger. E praticamente fanno vedere che tipo Amendola e la Ricci parla, dice tipo buonanotte, buonanotte. E si sente e l'hanno notato in tanti e continua a mettere questo sottofondo, insomma, con messaggi subliminali. Però oggi ha detto che non si ricandida, sì, facciamo sì, le sì. primarie. L'ha detto, l'ha sì, detto. Sì, tutti primari, immagino sì, con i candidati, Alfano no, ma sai, e Alfano. Ma non è più Alfano. Cioè non sono più in Salfano sarà. Sarà Salfano, perché con Alfano credo che siano in rotta di collisione i due. Ah, sì. Non è più il suo Delfino, so che siamo molto litigati. Ho capito. A sì. proposito di Delfino, vi invitiamo a cercare sì. su internet. Sì, sì. Un altro mammifero. Whale, non mi ricordo cosa c'è scritto. Whale human voice. Esatto, è uno squalo che è riuscito, una balena. Perché squalo? Una balena. Whale. Una balena. Sì. Una balena che ha, diciamo, cercato di riprodurre la voce di un essere umano. Quindi sì. se cercate Whale human voice trovate questo file. Almeno oggi era tipo quelli che si ascoltano in streaming. No, in streaming. Sì, in streaming, esatto. Mettete play al player e in 15 secondi sentirete la balena che però sembra il nostro qui presente Andrea Massaro che fa uno dei suoi versi. Puoi fare sentire come lo fai tu? E la cosa grave è che Michelino con la raucetine. Esatto, ma non è lui. Vi assicuro non che è la balena uguale. Fa esattamente così. Secondo me la balena ha deciso di imitare Andrea. Non è Andrea che l'ha imitata. Anzi, noi la linkiamo sulla nostra pagina dell'onda. Esatto, così potete trovarla. Ascoltatela, fai risentire Andrea il tuo. Perfetto, uguale. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Il regista è senza parole, vorrebbe prendere uno psicofarmaco per Andrea, la farmacia di turno qui vicino. Noi vi ringraziamo per esserci stati. Grazie, grazie a tutti per gli applausi. Lui era Brum dall'altra parte del vetro, che non è l'acquario, ma è la regia. E in acquario c'eravamo i due pesciolini, Andrea e Antonio. Ciao. Ciao. Ciao. Scusami. No. Ora tu. Aspetta, no. Allora, no, tu ora stai fermo. Sì, guardami. Non è colpa mia. Guarda. Cioè, abbiamo salutato tutta la cosa. Hai sentito il ping? E cos'è, ecco, il ping? Non lo so. Andiamo a scoprire. Allora, ma sì, vabbè, mentre il regista risalutiamo. Qual è il motivo per cui noi vi risalutiamo? Veramente, non abbiamo detto ci vediamo mercoledì prossimo, quindi forse il blin è per ricordarci della dimenticanza. Devi dire mercoledì prossimo. Mercoledì. E soprattutto che siamo in replica. Chi ci sta ascoltando lo sa. Chi ci sta ascoltando sono le 2 di notte, quindi lo sa benissimo. Sono le 2 meno 3 minuti. Chi non lo sa lo scoprirà un giorno. Forse il Brum ha trovato il bando della matassa. E allora, see you next Wednesday and stay tuned. Ciao.